Bossi ha fatto bene a sollevare il problema che ha sollevato ed è ora di affrontarlo senza ipocrisie. La Lega persegue un interesse diverso da quella dell'Italia, perché persegue l'interesse di quel che lui crede essere un altro paese, la Padania. Allora a questo quesito il governo e Berlusconi deve dare una risposta venendo in Parlamento per sapere se al governo c'è un governo che fa gli interessi del paese o un governo che fa gli interessi di un altro ipotetico paese, peraltro inesistente.